La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, all'appuntamento col cinema di Radio 24. Io sono Franco D'Assisi e questi sono i titoli di testa. Addio Michel, omaggio a Michel Piccoli fra gli ultimi baluardi della stagione d'oro del cinema francese e non solo. Ripercorriamo con Gianni Canova i momenti magici di una carriera infinita. Cinema in streaming ma anche in sala. Nascono Mio Cinema e Io Resto in Sala, piattaforme in streaming dove scegliere un film da vedere ma anche un cinema dove vederlo. Con noi ci sarà Andrea Occhipinti. Arriva in streaming I Miserabili, debutto nel lungometraggio per L'Age Lee, premiato a Cannes con il Grand Prix della giuria. Viaggio nell'inferno delle banlieue parigine, dove anche la polizia non può entrare. E a proposito di esordi d'autore, Ginevra Elkann ci parla di Magari, la sua opera prima autobiografica, con Riccardo Scamarcio e Alvar Horvacher. Casey Affleck e Rooney Mara sono invece i protagonisti di A Ghost Story, film anomalo di fantasmi che ha incantato il Sundance, un po' meno noi, ma che rimane un interessante oggetto cinematografico. Chanson d'Hélène nella versione italiana, cantata da Romy Schneider e Michel Piccoli, protagonisti di Les choses de la vie, in italiano L'amante, di Claude Sauté. Il nostro modo per rendere omaggio al grande attore francese scomparso a inizio settimana, ma troppo grande la figura di Piccoli per dimenticarla in quattro giorni. Con Piccoli infatti scompare uno dei pilastri della stagione migliore del cinema francese, 170 lungometraggi con i registi più grandi della storia del cinema, da Godard a Buñuel, da Hitchcock a Ferreri, da Melville a Renoir, da Rivette a Sauté e poi Jacques Demy, Agnès Varda, Bellocchio, Costa Gavras, Lelouch e Moretti. Cosa vedevano in lui i migliori sguardi del cinema mondiale di tutti i tempi? Probabilmente la classe, l'eleganza, unita però a una tensione interiore sempre pronta a sfociare nel gesto forte, e insieme quella faccia da uomo ordinario, discreto, che puoi trovare al bar, intento a dimenticare in un bicchiere di cognac le ferite della vita. E allora sentiamo questa galleria di personaggi che lo hanno reso un gigante del cinema mondiale, nell'ordine Bella di giorno di Louis Buñuel con Catherine Deneuve del 67, La grande abbuffata di Marco Ferreri con Marcello Mastroianni del 73, Tre amici, le mogli e affettuosamente le altre di Claude Sauté con Marie Dubois nel 74 e finiamo sentendolo cantare Michel Piccoli in Les Demoiselles de Rochefort di Jacques Demy con Catherine Deneuve del 67. Le parlo francamente, vorrei un appuntamento. Non ha che da chiederlo. Ma ci verrebbe? C'è troppa gente qui. Tanto meglio. Il primo appuntamento va sempre bagnato. Certo, ci conto. Con questa? Sì. Oh, che male. Oh, no, non essere cattivo, Marcello. Ma lasciati andare. Piano. Lasciati andare. Ah! Ah! Sai, da piccolo mia madre mi dava sempre delle punizioni terribili. È la prima volta da quando sono grande. Non prenderla sul tragico, apri le gambe. Cosa hai fatto questo pomeriggio? È inutile che tu me lo chieda ogni volta, visto che lo sai. Non si sa mai. Ma sì, sei un porco. Io, eh? Tu vai a letto con chi ti capita, lo dici pure, il porco sarei io. Mica male questa. Non prendete pas mal ce que je vais vous dire, mais lorsque ma fiancée m'a laissé, il y a 10 ans, j'ai éprouvé le même petit agacement du côté du cœur. Votre fiancée? C'est pour elle, voyez-vous, que j'ai décidé de quitter Paris. Ma fiancée trouvait mon nom très ridicule. il l'a choqué, je crois. Alors sans préambule, un soir elle est partie, sans un mot, sans adieu. Mes yeux depuis 10 ans n'ont plus croisé ses yeux. E per inquadrare meglio la figura di Michel Piccoli è con noi Gianni Canova, critico cinematografico, rettore dell'Università Yulm e molte altre cose, ma soprattutto amico della Rosa Purpurea. Ciao Gianni! Ciao a te Franco e buongiorno a tutti gli ascoltatori della Rosa Purpurea. Gianni, se potessi condensare in poche parole l'essenza attoriale di un gigante come Michel Piccoli, che parole useresti? Di Michel Piccoli io ho sempre amato moltissimo l'autoironia. È come se in ogni suo gesto ci dicesse «non sono che un attore». Rispetto a tanti altri suoi colleghi seriosissimi, messianici, profetici, un po' isterici, superomistici, Piccoli non dimenticava mai che recitare è anche e prima di tutto un gioco. Non a caso si dice jouer in francese, to play in inglese, recito, gioco. Dopodiché era consapevole, Piccoli, non dimentichiamo che oltre al cinema la sua grande passione era la politica, era consapevole che giocare è una cosa seria e che con il gioco della recitazione puoi anche provare, non dico a cambiare il mondo, ma a far vivere meglio, a migliorare la vita di quegli spettatori che trovano piacere nella tua arte. Ce lo siamo chiesti prima, cosa ci trovavano in lui? Non un bellissimo, ma un magnetico, non un incantatore, ma un seduttore. Registi così diversi e così grandi, provenienti da ogni era cinematografica. Come faceva a essere materiale duttile e plasmabile al tempo stesso da Hitchcock o da Buñuel, da Sauté o da Ferreri? Cambiando sempre o proprio in virtù della sua unicità? Hai detto bene tu, non bello ma ipnotico, con le sue sopracciglia marcate, la stempiatura precoce, le basette signorili, il portamento elegantissimo. Piccoli ha incarnato l'uomo comune, ma l'uomo comune disposto a lasciarsi plasmare, a rivelare anche il lato oscuro della normalità, e quindi a trasformare per esempio l'eleganza in disagio esistenziale, pensiamo alla straordinaria interpretazione che fa in Die Liegende Morto di Ferreri, ma anche a trasformare la sua normalità in smorfia grottesca. Allora mi viene in mente inevitabilmente La grande abbuffata, dove Piccoli muore strozzato dal cibo, vittima di violentissime crisi di meteorismo, muore durante una crisi di aerofagia. Piccoli, vi ricordo, è stato sposato per più di 10 anni, se non ricordo male, con Juliette Grecola, diva leggendaria dell'esistenzialismo parigino. E lei, dopo più di 10 anni di convivenza, diceva di non essere riuscita a penetrare nell'enigma di Piccoli. E lui stesso diceva di amare più di tutto il dubbio e il segreto. Ecco, Piccoli ha incarnato l'enigma della normalità e il volto pubblico, al contempo il volto segreto dell'uomo qualunque. Gianni, il giochino lo so è crudele, ma devo chiederti 3 titoli da Isola Deserta su oltre 170 della filmografia di Piccoli. È crudelissimo, ma direi inevitabilmente La grande abbuffata, per questo ritratto di un potere maschile che divora il cibo come il sesso, vorace, avido, egoista, autodistruttivo, Fischiato a Cannes, e forse un titolo di merito. Salto nel vuoto, di Marco Bellocchio, 1980, se non ricordo male, dove accanto a Nuque Me, Piccoli è un giudice suicida che esplora proprio e fa esplodere il confine fra normalità e follia. La Belle Noiseuse di Rivette, dove incarna un pittore che si è ritirato dalle scene e riprende il pennello in mano quando una giovane donna, interpretata da Emmanuel Béart, gli chiede di posare per lui, in un film che davvero indaga il sentimento profondo della vita, della morte, dell'arte, del cinema. Ma poi perdonami, come faccio a non citare Abbiamo Spapa di Nanni Moretti per questo ruolo difficilissimo, come lui riesce a rendere credibile e reale questo Papa fragile, questo Papa di nuovo ludico, questo Papa che in qualche modo oscilla fra i vezzi e l'angoscia, in uno dei ritratti più memorabili che Piccoli ci abbia dato. Ma ho dimenticato Buñuel, ho dimenticato Sauté, ho dimenticato Godard. Come si fa? È troppo crudele il tuo gioco. Grazie Gianni Canova, ci sentiamo presto. Grazie a te Franco e un ciao a Michel Piccoli, perché davvero ci mancherà. Non ce la faccio più ad andare avanti. E ha già provato altre volte questa sensazione? Non lo so. No, non mi sembra, però non lo so. Senta, ha problemi con la fede? Ma no. Sicuro? Sì. E fra poco passiamo all'attualità cinematografica. Sarà con noi Ginevra Elkann per raccontarci il suo esordio alla regia, l'interessante Magari, con Riccardo Scamarcio e Alvaro Orvacher, dopo la viabilità. La Rosa Purpurea. Mi sacrifico, bevo questo bicchiere di pipì, piedi e le mani gelate, con uno sciopero in testa ed in tasca l'estate. I sogni di Alma, sussurrati come una preghiera e affidati a un bicchiere di pipì, penitenza infantile per far tornare insieme mamma e papà. C'è la figura di questa bambina di 9 anni al centro di Magari, esordio alla regia di Ginevra Elkan, stirpe Agnelli, ma soprattutto donna di cinema, con la sua Good Films, che ha fondato nel 2009 e con la quale ha coprodotto opere di grande interesse, su tutte Mektub di Kechiche. Presentato con ottimi riscontri di critica, prima a Locarno, poi a Torino, Magari è ora disponibile in esclusiva e gratuitamente su RaiPlay. Alma, Jean e Sebastiano sono tre fratelli molto legati tra loro, che da Parigi, dove vivono con la madre altoborghese di fede russo-ortodossa, arrivano in Italia scaraventati fra le braccia di Carlo, Riccardo Scamarcio, il padre italiano sceneggiatore bohemien, che non riesce a badare a se stesso, figuriamoci ai figli. Nel crogiolo di una casa al mare, sul litorale di Sabaudia, durante una vacanza di Natale, i tre fratelli scopriranno il vero volto, carismatico e inaffidabile, di questo padre bizzarro. Si affezioneranno alla sua collaboratrice fidanzata, Alba Rohrwacher, ma continueranno a sperare che, magari, un giorno quella famiglia possa tornare ad unirsi. Oh, basta! Ma che c'è? Oh, alza, io non ho fatto questo niente, è, però questo è rigore, eh! Ma che rigore? Ma che rigore? Ma vattene, dai! Che rigore? È un metro dalla porta! Qua è rigore, ma non guarda, fatto in campo, niente, oh. Guarda in campo! Qui non è rigore! Non ho fatto niente! Mi hai fatto crostare! Oh, stai calmo! Datti la calmata, okay. Chiaro? Prima di andare via, sorridi un po', come per proteggermi da una tua malinconia. Non è difficile scorgere dietro i delicati ritratti dei personaggi di questa trama di familiare le figure di Ginevra, Lapo e John Elkan, alle prese con genitori separati e un'identità tutta da riaffermare. Però il film non è tutto lì. Ginevra Elkan dirige con mano poetica ma antiretorica. La fotografia desaturata di Vladan Radovich, che ha fatto le luci del Traditore e della Pazza Gioia, solo per citare i più noti, cala il film in un contesto naturalistico, cui si adegua anche lo stile della recitazione. Scamarcio è perfetto nella sua istintiva irruenza, moderata da un mestiere sempre più affinato. Alba Rohrwacher è sempre brava a trovare la sua misura. I bambini sono spontanei e credibili. Insomma, magari è sicuramente un esordio da promuovere. Noi ne abbiamo parlato con Ginevra Elkan nel novembre scorso al Torino Film Festival. Ecco l'intervista. Che le cose non vanno. Allora, Ginevra, ti voglio chiedere dove parte l'idea di affidare a questa parola così tanto italiana e così tanto piena di speranze, di desideri, anche carica di significati, il centro del tuo primo film da regista. Perché magari? Ma perché questo sentimento, questo magari, è veramente il centro del film, cioè questo che è pervasivo nel film e che è il sentimento di una bambina di 9 anni con dei genitori separati. E quindi questo film, che è un film sull'idea della famiglia e sul sogno di questa ragazzina di ricongiungere la sua famiglia, la parola magari mi sembrava proprio che racchiudesse tutto questo sentimento, che tra l'altro è una parola molto bella perché racchiude, no, gioia e tristezza, no? Cioè malinconica e anche speranzosa, certo. Sì. Quanto c'è di Ginevra Elkan dentro Alma? E qualcuno ha detto, chiaramente inevitabile pensare ai due fratelli come una sorta di saga familiare. È anche così? Ma io credo che lo spunto di questo magari appartiene a me, no? Quindi io, i miei genitori si sono separati e io avevo questo magari. E quindi nasce da una cosa molto autobiografica. Poi il film, come sono spesso le storie, poi prende la sua storia. Certo, lo spirito di Alma e questo suo pensiero è pervasivo per il film, no? Però non è solo la sua storia, è la storia anche dei suoi fratelli, del padre. Però l'importante veramente era rappresentare il mondo degli adulti attraverso gli occhi dei bambini. Hai scelto un tempo, certo, che è abbastanza individuabile, un'epoca abbastanza individuabile, ma non un anno preciso, mi pare di poter dire, no? Cioè, in realtà, quando noi l'abbiamo scritto abbiamo pensato 90-91, no? Questo è veramente, l'abbiamo scritto con questo, però non volevamo, cioè è negli anni 90, 80-90, e infatti ha tutti dei riferimenti, diciamo, nostalgici di quegli anni lì, però non è un film sugli anni 90. In realtà una delle ragioni per la quale abbiamo veramente voluto ambientarlo in quegli anni lì era di non avere telefonini. Senti, ti chiedo un'ultima cosa, Riccardo Scamarcio, ancora una volta l'hai usato in un ruolo, come dire, che non è quello del conquistador, ma è quello, anche un po' sì, però è quello di un uomo tribolato, egocentrico, che però piano piano scopre che si può essere padri, diciamo, anche dopo esserlo stato biologicamente, no? Certo, beh, lui è un grandissimo attore e con una qualità di trasformismo non molto forte, e quindi secondo me in questo film è riuscito a tirar fuori anche una fragilità che rende questo personaggio, che è un personaggio complicato, anche che uno potrebbe anche non amare, perché invece lo rende un personaggio molto umano. Grazie. Grazie mille, grazie. Mentre il resto, quello che è andato perso, ci sembra un'altra vita. Ginevra Elkan e il suo esordio alla regia con Magari. Noi invece adesso giochiamo insieme, come facciamo tutte le settimane, regalandovi due DVD di un film che dovete indovinare, cominciando da questa traccia. Mi è venuta un'idea. Quale? Facciamoci una mangiata di indiano stasera. La mamma è libera. Sì. Possiamo pagarla con le tue mance. No. E allora, se l'avete già individuato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it. Più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Ora trasferiamoci nella casa dei fantasmi. Quando ero piccola traslocavamo di continuo. Io scrivevo dei bigliettini, poi li ripiegavo tante volte e li nascondevo in vari posti, così se mai fossi voluta tornare ci sarebbe stato qualcosa di me che mi aspettava. Perché te ne andavi da quelle case? Perché non avevo scelta. Ci sono strani rumori in questa casa. Una casa stregata, abitata da due innamorati e probabilmente da qualcos'altro che c'è, ma che i nostri non vedono. Gli ingredienti base di una storia di fantasmi come tante, ma A Ghost Story non è questo, o perlomeno lo è, ma non nella maniera che ti aspetti, non declinata in film horror. A prevalere è il sentimento piuttosto che lo spavento. I protagonisti sono due nomi di grosso peso del nuovo firmamento hollywoodiano: Casey Affleck, premio Oscar per Manchester by the Sea, e Rooney Mara, due nomination per Uomini che odiano le donne e Carol. Eppure il film, diretto da David Lowery, regista del crepuscolare Old Man and the Gun con Robert Redford, è costato solo $100,000. Un altro dei miracoli della giovane compagnia A24, ebbene sì, dal nome dell'autostrada italiana, specializzata in cinema di qualità. Ora A Ghost Story, presentato al Sundance Film Festival nel 2017 e mai uscito in Italia sul grande schermo, approda su Netflix. Sì ed M, nel film li conosciamo solo con le iniziali, sono una giovane coppia che abita in una casa di legno nella prateria. Una casa che ogni tanto scricchiola in maniera sinistra, altre volte si propone di notte con rumori inquietanti. I due stanno meditando se lasciare quell'abitazione quando una mattina Sì muore in un incidente stradale a pochi metri dalla casa. No spoiler, succede dopo pochi minuti. Ma dal lettino dell'obitorio, dove riceve l'ultimo saluto di una franta M, Sì si alza trascinandosi dietro il lenzuolo, coi buchi sugli occhi, proprio come da iconografia classica del fantasma. Quando lo Stargate luminoso per l'aldilà si apre, lui preferisce restare al di qua e osservare, diciamo spiare, la vita che verrà di quella giovane vedova. Ma l'amore e la vita sono circolari, sembra dire Lowery, e tutto torna alla fine. Ci ha raggiunto al telefono Boris Sollazzo. Ciao Boris! Buongiorno Franco e buongiorno a tutti gli ascoltatori. È un film strano questo Ghost Story. Sembra guardare al tardo Malik, quello che io personalmente ritengo insopportabile, prima di ritrovare qualcosa da raccontare, oltre al come raccontarlo con il suo ultimo La vita nascosta. Atmosfere rarefatte, musica quasi New Age. E Ghost Story è un melodramma sovrannaturale che però fatica molto, soprattutto nella prima mezz'ora, non che decolli del tutto neanche dopo, ma rimane comunque oggetto filmico interessante, a partire da quel formato 4/3, quasi in stile hitchcockiano, che comprime i confini visivi dello spettatore. C'è una certa malinconia nel cinema di Lowery che lo rende totalmente anacronistico e affascinante. Anche il bel film con Redford aveva enormi difetti nel ritmo, nella messa in scena, e però aveva un fascino, come forse un mobile antico, troppo barocco, troppo grande, ma che comunque ti tieni nel salotto perché lo trovi a suo modo irresistibile. Ecco, Ghost Story è un po' questo, è pieno di errori, anche voluti, cioè quell'iniziale parte estremamente lenta, compassata, che si ferma a scrutare i visi dei suoi personaggi o ad accompagnare la camminata del fantasma. Ci leggi il piano di interpretazione narrativo, capisci che in qualche modo la tensione emotiva e soprattutto emozionale, hai ragione tu, non è un horror, è un film di sentimenti. È come avrebbero girato Ghost se il suo regista fosse stato depresso, insomma. È la parte cupa, crepuscolare, di quella trovata, che è anche una trovata facile. È una trovata anche affascinante il fatto di lasciare l'iconografia classica, infantile, del fantasma come compagno, e inserire poi una visione, un'interpretazione quasi alla The Others. Sono bravi, non bravissimi gli attori, anche perché a loro è consegnata una passività, un essere dolenti che si avvicina quasi all'apatia. Alla fine il film è abbastanza noioso, il film non trova, secondo me, una chiave di lettura e di messa in scena chiara, forte, potente, e allo stesso tempo però ha dei momenti estremamente poetici, estremamente forti. Quel finale, che è pazzesco, è un'intuizione straordinaria che probabilmente è prevedibile, perché è fin dalla prima battuta che capisci che quella cosa potrebbe succedere, magari non in quei termini, ma che quell'elemento che viene citato sarà determinante. Anche lì è un trucco elementare di sceneggiatura, ma funziona. E nonostante tu ti sia perso, nonostante probabilmente tu ti sia distratto, forse è proprio questo il valore di questo film: lasciarti lo spazio per riflettere, per divagare, per andare altrove, e poi torni e in qualche modo qualcosa ti ha lasciato. Ghost Story è un percorso troppo lungo per arrivare dove è giusto arrivare. Poteva tranquillamente essere un cortometraggio molto potente, però alla fine lì ci arrivi. Se hai avuto la forza, se non ti sei addormentato, perché potrebbe succedere anche questo, forse quel viaggio, anche se troppo lungo, anche se facendo il giro largo, un po' ne è valsa la pena. Grazie Boris, rimani con noi, fra poco parliamo de I Miserabili, film che ha vinto il gran premio della giuria al Festival di Cannes lo scorso anno e che lancia la volata a una nuova piattaforma di cinema d'autore, Mio Cinema, che mette in relazione lo spettatore con la sua sala cinematografica del cuore. Ne parleremo tra poco con Andrea Occhipinti, che con la sua Lucky Red distribuisce da anni cinema di qualità. Fra poco. La rosa purpurea. Faccio appello al suo spirito di squadra, di aggregazione. Se non c'è coesione, non c'è squadra. E senza squadra si è soli. Ti sei preso la squadra sbagliata. Controllo di polizia. Che fate? Aspetti l'autobus? Puzzi di erba. Ehi, va bene così. Sto filmando, non potete farlo. Smettila. No. Ora sei contenta? È la nostra vita. luglio 1998. La Francia si riversa nelle strade per festeggiare la vittoria ai mondiali, un momento unico in cui il paese è unito al di là del colore della pelle, della religione, delle classi sociali. tutti con la stessa emozione addosso, come una maglia blu attaccata alla pelle. Dissolvenza, giorno d'oggi, l'ebbrezza è finita, il collante si è disgregato e ognuno è tornato al suo posto. Chi nella banlieue a tentare di vivere più o meno legalmente la vita di tutti i giorni, chi nella stessa banlieue, indossando però una divisa e un giubbotto antiproiettile, a tentare di far osservare più o meno legalmente le regole. È la storia de I Miserabili, opera prima del francese di origini maliane Laj Lee, premiato a Cannes 2019 con il Grand Prix della giuria. Il Covid ne ha impedito la meritatissima uscita in sala, ma ora il film è disponibile sulla nuova piattaforma Mio Cinema, della quale parleremo fra poco con Andrea Occhipinti. Montfermeil, 20 km ad est dal cuore di Parigi. Negli anni 60 i casermoni dell'edilizia massiva hanno sostituito le locande come quella dei Thénardier, dove Victor Hugo aveva ambientato momenti chiave del suo capolavoro, I Miserabili. Ecco il perché del titolo. I miserabili vivono ancora qui. Sono giovani, spesso bambini, spesso con la pelle nera. Si arrabattano con traffici e furti e più va in alto e più traffici e furti sono grossi e pericolosi. In questo contesto di tensione e di disagio basta una scintilla a far scoppiare l'incendio. E la scintilla è il distintivo della polizia se sei un agente come Chris, veterano dalla scorza dura che in quel quartiere ha scelto il pugno di ferro per farsi ascoltare. A che gioco giochi? Vuoi fare lo sceriffo? Se faccio una telefonata e ti segnalo, lo chiudi questo posto di merda. E la moschea nel garage con i tuoi mongoloidi. Tutto finito. Domani vengo a casa tua e ti arresto davanti a tua moglie e tua figlia. Hai capito? Stefani invece arriva da fuori, assegnato come rinforzo alla squadra anticrimine di Montfermeil. Tenta la carta del dialogo, del patto, della lealtà con informatori e malviventi del quartiere. Tenta la carta del rispetto piuttosto che quella della paura. Ma prima che riesca a far passare la sua linea, si troverà coinvolto nella bagarre, una vera e propria rivolta contro l'odiata polizia, dove l'odore della paura può avere la faccia di un bambino con la pistola. Perché, come diceva Victor Hugo, non ci sono né cattive erbe né uomini cattivi. Ci sono solo cattivi coltivatori. Fermati! Fermo, non ti muovere, giù a terra! Mettiti a terra! Dammi le mani! Quindi mi fai correre, brutto frocetto! Lasciami! Che cazzo! Forza, alzati! Alzati, stronzo! Lasciami! Comanda, comanda! Andate via, forza, ci penso io! Ritroviamo Boris Sollazzo. Boris, I miserabili è adrenalina, sguardo sociale, inseguimenti, tensione. Insomma, cinema allo stato puro. E Laj Lee, che a 17 anni ha comprato una telecamerina digitale e ha filmato tutto il filmabile, dimostra al suo primo lungometraggio che il cinema si impara soprattutto facendolo. La Francia è un sogno tradito, è un sogno infranto, è un sogno di integrazione che quella squadra dei mondiali fotografava in maniera plastica, fin troppo evidente e probabilmente falsa, e lo sapevamo da prima di quei momenti qui ricordati, no? Lo sapevamo dai tempi dell'odio, dai tempi di Kassovitz, che è un maestro ed ha fatto un film capitale, seminale, perché dopo la narrazione delle periferie francesi non è stata più la stessa. E spesso quel esempio ha anche schiacciato giovani autori, anche non troppo giovani, perché era impossibile non far riferimento all'odio, esattamente come Kassovitz non aveva rifiutato il confronto con Taxi Driver. Questi miserabili sono un progetto interessantissimo, un film molto bello, non a caso insomma ha vinto a Cannes un premio importante come quello della giuria, perché l'ottica non è tanto quella dei ragazzi della banlieue, che qui non sono né passivi né emarginati come quelli dell'odio, ma è un po' l'ottica della tropa d'élite, cioè l'ottica di un nucleo di poliziotti che provano ad affrontare la vita e il proprio lavoro in maniera diversa. Ne esce fuori un ritratto sociale molto interessante, una regia dinamica, muscolare, anche molto pop e allo stesso tempo però con una chiara visione d'autore, e capisci che un tema così underground, un tema così profondamente complesso può avere una narrazione mainstream, può anche essere portata all'accettazione del grande pubblico, all'accettazione non all'accettazione passiva ma alla comprensione del grande pubblico. I miserabili ha proprio questo, tanto l'odio parlava a una generazione, tanto l'odio parlava a un certo tipo di cinefili e poi diventa fenomeno collettivo I Miserabili invece, fin dalle facce che sceglie, si prende la responsabilità di parlare a tutti, di provare a parlare a tutti, di fare un ritratto sociale che sia anche scomodo. Pensiamo semplicemente all'uso che si fa qui dei bambini, a un certo punto all'assedio dei bambini nei confronti dei poliziotti, a quanto è fondamentale quell'infanzia che ormai è tradita, quell'infanzia che in qualche modo cerca di reagire, di avere una parte attiva, in cui senti quasi una nuova forma di guerriglia. È molto affascinante, I Miserabili, e devo dire anche per la qualità della messa in scena, è veramente un peccato che non sia uscito in sala, ma speriamo che dal 15 giugno si trovi il modo di vederlo anche in sala, proprio attraverso questa nuova piattaforma che la sala la coinvolge anche nei profitti. I Miserabili, quindi, esordio fantastico alla regia di Laj Lee. Tra l'altro il regista ha annunciato che il film farà parte di una trilogia nella quale prima si tornerà indietro con un altro film politico ambientato durante la rivolta del 2005 e un terzo episodio invece ci porterà negli anni 90, ancora più indietro, ma questi sono ancora i progetti di Laj Lee, che ha tra l'altro rinunciato a un sacco di proposte dagli Stati Uniti dopo il bellissimo e premiatissimo esordio, appunto, I Miserabili, perché ha detto: voglio dedicarmi a questa storia ancora per i miei prossimi film. Ma come dicevamo, I Miserabili è solo il primo di una serie di film di qualità che saranno distribuiti in streaming sulla nuova piattaforma Mio Cinema. Più di 130 cinema su tutto il territorio nazionale che creano un link con il proprio pubblico. Ci si iscrive alla piattaforma gratuitamente e si seleziona il proprio cinema fisico, quello vero, di riferimento. Il 40% dell'incasso sul film che scegliamo di vedere andrà proprio alla sala. Oltre alla novità dei Miserabili, la piattaforma ha selezionato per il momento titoli che si sono distinti a Cannes negli ultimi anni, qualche titolo, appunto, Un affare di famiglia di Koreeda, Io, Daniel Blake di Ken Loach, La vita di Adele di Kashish, Amour e Il nastro bianco di Michael Haneke, ma ce ne sono anche tanti altri. E per raccontarci Mio Cinema è con noi Andrea Occhipinti, una carriera d'attore negli anni 80 e 90, una ancora più grossa di produttore e distributore da oltre 30 anni con la Lucky Red. Andrea, presentaci Mio Cinema. Cos'è e come funziona il legame con le sale? L'idea è che la sala e il suo pubblico sono al centro di questa iniziativa, nel senso che ne sono parte attiva in termini promozionali, ma anche hanno naturalmente un pezzo di quello che apportano in termini di visioni vendute. L'idea è quella di fare uscire, in questo momento che le sale sono chiuse, tutti i film che dovevano uscire. Parliamo di film che vengono dai festival. È simbolico che siamo partiti il 18 di maggio, durante il periodo in cui sarebbe dovuto avvenire il Festival di Cannes, con un film, I Miserabili, che ha vinto l'anno scorso il Gran Premio della Giuria. Questa un po' vuole essere la linea editoriale, vuole essere la casa degli autori italiani e stranieri, dei grandi autori. Per cui, per chi ama quel tipo di cinema, questa piattaforma Mio Cinema è un riferimento. Andrea, il dubbio nasce spontaneo. Non hai timore che, pur cercando di cementare il rapporto degli spettatori con la propria sala di riferimento, ci sia il rischio che l'iniziativa possa comunque impigrire ulteriormente il pubblico? Io non penso che una cosa escluda l'altra. L'esperienza del cinema visto in sala, sul grande schermo, è un'altra cosa e è unica. Condividere un'emozione, una risata con altre persone al buio in una sala è un'esperienza assolutamente unica. Nello stesso tempo, quello che noi abbiamo creato è in qualche modo un'estensione della sala, un'estensione digitale per gli spettatori, che sia anche uno strumento di informazione rispetto a quello che uscirà, rispetto magari a film legati a quell'autore che sta per lanciare un nuovo film e magari puoi trovare la retrospettiva dei suoi film anteriori. Per cui, come dire, è assolutamente senso che, soprattutto per attrarre un pubblico più giovane, ci debba essere uno strumento dinamico, digitale, soprattutto oggi che tutti quanti in questo, diciamo, confinamento ci siamo abituati a usare questi strumenti. Grazie Andrea Occhipinti. Questa settimana è stata presentata tra l'altro un'altra piattaforma analoga, Io Resto in Sala, altre 170 sale che si sono aperte allo streaming fidelizzato con i propri spettatori, fra i promotori l'Anteo di Milano con Lionello Cerri e la Cineteca di Bologna con Gianluca Farinelli. Ne parleremo più diffusamente la prossima settimana. Ora giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro DVD game di oggi. Sono Abby, la moglie di Ricky. Cazzo! Sono qui in ospedale con lui, alla faccia gonfia di pugni, e tu stai lì a parlare di multe, di apparecchi da 1000 sterline. Ma ti rendi conto? Abby, lavoratore autonomo. Ma quando? Lavora 14 ore al giorno per 6 giorni per te. Dov'è che è autonomo? E allora un film che arriva da un regista di forte impatto politico e sociale, tra l'altro ne abbiamo appena citato il nome, voglio aiutarvi ulteriormente, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, ci sono due DVD di questo film che sveleremo fra poco, che vi aspettano. Adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo con un altro pezzo forte, dal 25 maggio, disponibile su Netflix, la serie Snowpiercer, tratta dal film omonimo di Bong Joon-ho, il regista di Parasite, fra poco. La Rosa Purpurea. Prima è cambiato il tempo. I negazionisti sapevano il perché, ma continuavano a raccontarci bugie. La guerra ha reso la Terra ancora più calda. I ghiacci si sono sciolti, con un tracollo tra tutte le specie. Così gli scienziati hanno cercato di raffreddare la Terra per cercare di riparare i danni provocati. Ma invece l'hanno congelata fino al nucleo. Solo il visionario signor Wilford ha previsto il futuro e ha costruito un grande treno arca. Un treno lungo 1000 e una carrozza. Noi, gente comune, i sopravvissuti abbandonati, abbiamo assaltato quel treno. Treno di 1001 vagoni lanciato contro l'ingiustizia, parafrasando Guccini, in mezzo a enormi distese di ghiaccio, in perenne moto perpetuo intorno al mondo. A bordo quel che resta di un'umanità che si è suicidata, prima fregandosene dei cambiamenti climatici, poi tentando di porvi rimedio ghiacciando la superficie terrestre. Su quel treno è salito senza biglietto un manipolo di disperati, che ne occupa il fondo, fra fame, sporco e stenti. Poi, man mano che si risale il convoglio verso la testa, c'è la terza classe, ci sono le fattorie, la prima classe, quella dei nobili promotori del treno e infine, o meglio in cima, la locomotiva, capitanata dal misterioso signor Wilford. Attenzione a tutti i passeggeri. La Wilford Industries vi augura buongiorno. Lasciate che vi assicuri che la vostra sicurezza è la nostra priorità più alta. L'ordine sarà ristabilito. Questo è lo Snowpiercer, il treno metafora della lotta di classe, inventato nel 1982 sotto forma di graphic novel dai francesi Jacques Loeb e Jean-Marc Rochette, diventato film con Chris Evans, Jamie Bell, Ed Harris e John Hart nel 2013 ad opera di quel geniaccio di Bong Joon-ho prima di conquistare il mondo con Parasite, e ora serie TV su Netflix a partire dal 25 maggio, con la produzione esecutiva dello stesso Bong e dell'altro gigante del cinema coreano, Park Chan-wook. Nel cast spicca Jennifer Connelly, insieme a un manipolo di volti che vanno dalla stella di Broadway, David Diggs, a volti celebri della serialità TV come Mike O'Malley, già visto in Glee. Torniamo da Boris Sollazzo. Boris, la serialità ha regole diverse dalla narrazione cinematografica. Qui, ad esempio, sarà un omicidio sul treno, stile Agatha Christie, a dare ai fondisti una chance di rivolta. Ma l'importante è non perdere lo spirito originario. Secondo te questa serie ci riesce? Ci riesce, Franco, ci riesce nel modo in cui può riuscirci qualsiasi narrazione derivativa. Tradendola, siamo lontani dalla struttura narrativa del film, e questo poteva essere scontato, ma siamo anche lontani da alcune delle sue atmosfere che nel film erano compresse, avevano una messa in scena, soprattutto per quanto riguarda il colore, il montaggio, la visione del film estremamente particolari, originali. Qui la serialità si sente tutta. Si sente in una linearità maggiore, in una pista narrativa che soprattutto nelle prime puntate si affida al genere, si affida al più classico thriller, diciamo, giudiziario di inchiesta poliziesca, e che però non perde lo spirito di ispirazione che Bong Joon-ho aveva avuto nel film, cioè quella di costruire una metafora visiva e politica molto forte, di raccontare un mondo alla deriva che reagisce con un modo continuo, un modo perpetuo, che gli dà l'illusione di una vita che tale non è, perché se è vero che i colpevoli di reati sono dentro dei cassetti, dei loculi, morti dormienti, o vivi, morenti in sonno perpetuo. Anche gli altri sono tutti imprigionati, non solo chi è nel fondo, ma anche chi è nella terza classe. Nessuno può uscire, nessuno può davvero vivere. La forza di questo film sta tutta nelle facce, alcune note a chi segue la serialità televisiva, sta nella forza di una narrazione che ha un ritmo abbastanza incessante, ma anche molto regolare, esattamente come se fosse un treno, e in un immaginario che piano piano si dipana e in qualche modo nell'ispirazione trova esattamente quello che cercava di raccontare Buongiorno. E in questo senso il fatto che la produzione esecutiva sia in mano a due personaggi che hanno un'idea di cinema così chiara, inevitabilmente influisce anche su chi dirige e su chi recita. Il risultato è davvero un'ottima serie televisiva che può essere amata da chi ha amato il film, da chi ha amato la graphic novel, ma che può avere tranquillamente anche una vita autonoma. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E siamo arrivati al momento di proclamare i vincitori del nostro DVD Game di 7 giorni fa. E sono così stanca delle persone che dicono che l'amore è l'unica cosa a cui posso aspirare. Sono stufa di sentirlo. Avevamo giocato con Piccole Donne di Greta Gerwig. Hanno vinto, perché hanno indovinato per primi, il Blu-ray di Piccole Donne, Claudia Pozzato di Gorla Minore, provincia di Varese, e Andrea Vai di Pavia. E noi del Blu-ray parliamo insieme a Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, per la sua versione di Piccole Donne, Greta Gerwig ha scelto l'unica opzione possibile per tornare su quella storia che dopo 150 anni resta una lettura naturale per ogni generazione e non solo per bambine e ragazze. Ha affrontato il romanzo di Louisa May Alcott da lettrice, identificandosi con l'autrice e con la ribelle evolutiva Jo, che come noto è alter ego della stessa scrittrice, non tanto per vanità ma per recuperare l'emozione della lettura, l'attimo del riconoscimento. La struttura stessa del film, con i suoi andirivieni temporali, replica il passaggio da una pagina all'altra di un libro che si conosce a memoria, certo, ma che si ripercorre sempre alla ricerca di momenti nei quali ritrovarsi. Ottimo il Blu-ray con extra ricchi, sono infatti 6 contenuti speciali in cui intervengono tra gli altri la regista e gli interpreti principali. Giulio, come sempre le nostre 2 segnalazioni dai palinsesti in chiaro della prossima settimana in TV. Partiamo da domenica alle 23:15 su Cielo, c'è Vixen di Russ Meyer, un maestro della trasgressione erotica e dell'irriverenza. Sì, siamo nel 1968 e questo è il primo film di quello che potremmo definire il periodo ultra pop di Russ Meyer, regista di cult assoluti come Faster, Pussycat, Kill Kill e Motor Psycho, e credo obiettivamente regista da cui il maggior numero di band musicali ha rubato omaggiandolo col proprio nome, nonché uno dei montatori più deliranti della storia del cinema, capace di associare fumetto e montaggio sovietico. Siamo nell'ambito di un cinema erotico ma cartunesco, tacciato all'epoca di pornografia, ma in grado ancora oggi di delineare satiricamente e perfettamente con le sue linee esagerate non solo perché Meyer amava le maggiorate, l'America provinciale tra prospettive di rivoluzione sessuali, xenofobia mal superata, repressioni e un patriarcato che le donne fuori misura di Meyer sbeffeggiavano già al tempo, mentre il regista seguiva e immortalava le loro forme. E la seconda segnalazione, Giulio, oggi ci serve anche per fare gli auguri a Clint Eastwood, che il 31 maggio compie 90 anni. E allora noi vogliamo segnalare alle 21:25 di mercoledì su Rete 4 in Prima TV, ore 15:17 Attacco al treno, proprio del vecchio Clint. È il 21 agosto del 2015, sul treno che dalla zona di Calais viaggia verso Parigi, una persona tenta di compiere una strage armato fino ai denti, ma 3 ragazzi americani in vacanza riescono a disarmare l'attentatore e immobilizzarlo. Ore 15:17 Attacco al treno, prodotto e diretto da Clint Eastwood, racconta cosa è successo prima, durante e dopo questa tentata strage. Eastwood, 90 anni il 31 maggio, gira qui uno dei suoi film recenti maggiormente discussi, pochissimo amati, osteggiato da tanti, ma segno di un regista più giovane, paradossalmente, di tanto cinema americano. Racconta, come spesso gli accade, la nascita di un eroe, studia le dinamiche umane ma anche mediali e politiche di questo processo e soprattutto pensa in digitale e non in analogico. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. L'ultimo capitolo, l'epilogo della Rosa Purpurea, è come sempre dedicato allo svelamento del film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Sorry We Missed You di Ken Loach. Settimana prossima recensione e annuncio dei vincitori di questa uscita un video. A voi l'augurio di buon cinema, anche se in streaming. Noi ci sentiamo fra 7 giorni. Un saluto da Franco D'Assisi.